In nome di Dio, salve cari ascoltatori di Parla Hussein, della voce della Repubblica Islamica dell'Iran, che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera, giovedì, il 9 maggio 2013, prevede un'apertura del notiziario accompagnato da una breve nota di commento. Nella parte conclusiva vi presenteremo un articolo dal titolo Aperta Fiera Internazionale del Libro a Teheran. Partecipano 77 paesi. Ora diamo spazio alle notizie, restate in ascolto. Comincerei come di consueto con i principali titoli. Iran elezioni, 144 iscritti in due giorni. Iran visita ministro esteri Oman. Siria, Nasrallah, ci forniranno armi che cambieranno il gioco. Nelle giornate di martedì e mercoledì, ovvero nei primi due giorni in cui le iscrizioni per la candidatura alla presidenza dell'Iran sono state aperte, 144 persone si sono registrate. Secondo quanto riferito dall'agenzia FARC, lo ha spiegato Hassan Ali Nouri. Nel primo giorno 75 persone si sono iscritte, mentre nel secondo giorno gli iscritti sono 69, ha detto ieri sera, spiegando che tra i 69 iscritti di mercoledì, 67 sono uomini e 2 sono donne. I candidati potranno iscriversi fino alla fine della giornata di sabato, dopodiché il Consiglio dei Guardiani dell'Iran inizierà ad esaminare l'idoneità degli iscritti per poi pubblicare la lista finale dei candidati. La campagna elettorale dei candidati inizierà il 24 maggio e durerà per 20 giorni fino alla fine della giornata del 13 giugno, 24 ore dopo, ovvero il 24 giugno, si terranno le elezioni presidenziali. Mercoledì sera è giunto nella capitale iraniana il ministro degli esteri della monarchia del Oman, il Sheikh Ben Alavi, che è stato accolto dal vice ministro degli esteri con delega per i paesi arabi e l'Africa, Hossein Amir Abdullahian. Nel corso della visita di un giorno, Ben Alavi incontrerà il collega iraniano Sadehi, con cui discuterà delle questioni politiche di interesse comune inerenti alla regione. Siria, voi israeliani dite che il vostro obiettivo è quello di fermare la resistenza contro di voi, ma la Siria ci fornirà delle armi mai avute prima che cambieranno il gioco, lo ha detto parlando alla televisione il leader degli Hezbollah libanesi, Sayed Hassan Nasrallah. Pakistan. La campagna elettorale in Pakistan, macchinata dalla violenza a pochi giorni dal voto, alcuni uomini armati hanno sequestrato Ali Haidar Gilani, il figlio dell'ex premier, candidato ad un seggio nell'assemblea provinciale del Punjab. Il giovane Gilani si era impegnata in un comizio accompagnato dal fratello Musa, che non è stato toccato. Lo vedete nelle immagini, nell'attacco, e invece è stato ucciso nell'assistenza personale del candidato e sono rimaste ferite alcune persone. Il gruppo ha aperto il fuoco contro i dirigenti del partito, il Partito Popolare Pakistano, che i talebani avevano recentemente minacciato accusandolo di essere anti-islamico. Reza Yousef Ghilani, il padre del sequestrato, era a capo del governo fino allo scorso anno, quando un tribunale lo esaurirò perché aveva rigettato l'apertura di una vecchia inchiesta su presunti fondi neri della famiglia Bhutto. Si vota sabato, oltre agli attacchi dei talebani che boicottano il voto e il particolare il Partito Popolare, il governo si teme una frammentazione con la forte crescita degli islamici radicali consolidati nelle regioni settentrionali. Afghanistan, le truppe americane resteranno in Afghanistan dopo il 2014 solo dietro invito del governo, lo ha detto ai giornalisti l'addetto stampa della Casa Bianca Jay Carney, parlando sull'aereo presidenziale che sta portando il presidente Barack Obama in Texas. Il presidente afghano Hamid Karzai ha detto oggi che autorizzerebbe la permanenza di 9 basi militari come parte di un accordo di sicurezza a lungo termine con Washington. Ma gli Stati Uniti non vogliono mantenere basi permanenti in Afghanistan, ha detto comunque Carney. Yemen. Due turisti finlandesi e un austriaco rapiti lo scorso dicembre in Yemen sono stati liberati alla frontiera con l'Oman e consegnati alle autorità di questo paese. Lo ha annunciato un alto funzionario yemenita, secondo il quale i tre ostaggi sono stati liberati la scorsa notte. Gentili ascoltatori, era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, tra poco con il commento. L'occupazione nel mondo colpisce più di 63 milioni di giovani. Il nuovo rapporto dell'ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, diffonde dati preoccupanti. Più di 63 milioni di giovani in tutto il mondo è attualmente senza un impiego. Corriere commenta così il bilancio drammatico dell'ILO. I giovani hanno 3 volte in più la possibilità di essere disoccupati rispetto agli adulti. Tempi di magra per tutti. E l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rileva 73 milioni di giovani senza un'occupazione. La disoccupazione giovanile nel 2012 ha raggiunto un livello del 12,6% in tutto il mondo, anche nei paesi industrializzati, e l'ILO conta 63,4 milioni di ragazzi privi di impiego, 3,5 milioni in più rispetto ai tempi precedenti alla crisi del 2007. La disoccupazione ha anche un costo, e per quanto riguarda la fascia di età compresa tra i 15 e i 24 è in continuo aumento e minaccia la crescita mondiale. Dal 2011 il tasso è cresciuto ulteriormente quasi di 1 milione e i giovani sono sempre più a rischio. La disoccupazione giovanile non è un fattore che si limita ai singoli stati, ma è una problematica che investe il sistema mondiale. Per questo José Manuel Salazar,

gentili ascoltatori, noi vi ringraziamo dell'attenzione e a presto. Thank you.